5F. Ascolta e trasforma. Vuole una risposta subito. Vogliono una risposta subito. Vuole un po' di tempo. Vogliono un po' di tempo. Vuole aspettare qui. Vogliono aspettare qui. Vuole dormire. Vogliono dormire. Vuole sapere tutto. Vogliono sapere tutto. Vuole partire subito. Vogliono partire subito. Vuole prendere il prossimo treno. Vogliono prendere il prossimo treno.